Italia in controluce. Italia in controluce racconta ogni giorno le storie della cronaca italiana e i problemi delle città. Oggi è il 17 marzo e Daniele Biacchiesi è in conduzione di questo approfondimento della redazione di Radio 24. Da sempre Perugia è una città di gente tranquilla, operosa, gente che vive tra le meraviglie dell'arte e un turismo consapevole, tra grandi mostre nazionali e rassegne internazionali di jazz. Poi una ragazza viene uccisa e Perugia balza improvvisamente sotto i riflettori del circo mediatico della cronaca. Così la città rivela qualcosa di diverso, un lato oscuro, di poco conosciuto, di misterioso. Il racconto di Beatrice Vergari. Meredith, i segreti della casa del delitto. Uno scambio di cadaveri, una telefonata minacciosa e un uomo, Francesco Narducci, che secondo alcuni conduceva una doppia vita. Grandi casi di cronaca nazionale e internazionale hanno gettato negli ultimi anni una luce inquietante su Perugia. L'idea di città noir e scabrosa rimbalza sulle pagine con ricchi e dettagliati resoconti. I cronisti la definiscono la Sodoma degli universitari, l'Amsterdam del centro Italia, e sono soprattutto l'omicidio di Meredith Kircher e la misteriosa scomparsa della studentessa pugliese Sonia Marra ad attrarre l'opinione pubblica sotto lo sguardo incredulo dei perugini. Alvaro Fiorucci, giornalista e scrittore che si è occupato nei suoi libri dei più importanti casi di cronaca umbri. La reazione della città al delitto di Meredith Kircher è stata una reazione di sgomento, paura, fastidio e poi abitudine. Per quanto riguarda un altro caso misterioso, la scomparsa di Sonia Marra, invece la reazione è stata di distrazione, silenzio e forse anche omertà, ma in nessuno di questi due casi ci sono spunti per poter dire che i delitti sono rappresentativi del modo di essere di una città o peggio ancora di rappresentare l'identità di una città. Nicola Miriano, procuratore della Repubblica di Perugia dal 1997 al 2008, ha conosciuto in una carriera da PM durata 43 anni la storia giudiziaria della città dall'interno, inclusi fatti più oscuri, e ritiene che l'attenzione morbosa di oggi non possa rappresentarne il metro di giudizio. L'apprezzamento del pubblico non ha niente a che vedere con la gravità o la quantità o la qualità dei fatti di cronaca. Sono state delle brutture, ma molto più feroci, molto più esasperate di quanto sia stato Meredith, e nessuno se n'è mai interessato, anche perché le maggiori violenze di un certo tipo, delle quali sono vittime i minori, non fanno grande notizia, no? A finire sotto processo è stato il mondo giovanile, il giro dei locali notturni, i costumi liberi di studenti italiani e stranieri, avvezzi ad alcol e droghe. Un ambiente culturale e sociale studentesco che non sembra più coincidere con quello che ha reso Perugia celebre in Italia e nel mondo. Fabrizio Croce, storico DJ perugino. Perugia nasce con una tradizione importante, perché è la città di Umbria Jazz, è la città della sagra musicale umbra, è la città dove è nato e si è sviluppato Rock in Umbria e tante altre realtà più o meno grandi legate ai nuovi indirizzi delle tendenze giovanili. Credo che in questo Perugia sia stata, soprattutto negli anni 80, i primi anni 90, all'avanguardia in Italia. Poi ha ceduto anche un po' il passo ad altre città che sono state più attente ai bisogni dei giovani e sono state più capaci di attirare le nuove leve universitarie. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, credo che tutto sommato non ci possano essere differenze di sorta tra quella che è la realtà perugina e altre città più o meno grandi. Ma cosa pensano gli abitanti di questa città storicamente aperta e multiculturale per la presenza della più grande università per stranieri d'Italia, nata nel 1921? Una città bellissima, tranquilla, da quel punto di vista la gente accogliente, l'unica cosa è la vivacità che un po' alla città gli manca. Una volta si viveva meglio, ma oggi è una delle città ancora più vivibili. Non credo che Perugia possa definirsi una città con dei problemi di sicurezza. Da studente si sta bene, non possiamo dire di no, infatti le grandi percentuali di studenti universitari che vengono da fuori regione dimostrano questo. Sicuramente il problema della droga è il problema fondamentale, secondo me, di questa città, almeno per quanto riguarda la vivibilità. L'Umbria fa segnare, è vero, un dato preoccupante, 18 decessi per overdose nel 2009, con il capoluogo, grande piazza dello spaccio del centro Italia, Vladimiro Boccali, sindaco di Perugia. È una città che ha molti anticorpi rispetto alle problematiche di questi anni. Certo, c'è una vulnerabilità rispetto al tema dello spaccio di sostanze, del consumo di sostanze, dato che ci vede già affrontare il tema oramai da molto tempo con risposte di contrasto da un lato, ma anche di politiche attive. Avete sentito Italia in Controluce, l'approfondimento di Radio 24 sulla cronaca italiana. Su www.radio24.it trovate l'intero archivio delle puntate andate in onda. Se avete temi da proporre per reportage di cronaca, problemi, eccellenze da segnalare dalle vostre città, la bacheca di Radio 24 Italia in Controluce su Facebook è il luogo giusto. Altrimenti potete inviare le vostre segnalazioni a controluce@radio24.it. I reportage di cronaca su Radio 24 tornano oggi pomeriggio alle 13:30.